Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Nessun luogo è lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci, il saluto vi viene anche da Miren Lucchetti e Massimo Brugnone in redazione, Roberto Scaltritti alla parte tecnica. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, per porre domande, suggerimenti o commenti sui temi affrontati quotidianamente da Nessun Luogo Lontano: la mail nessunluogo@radio24.it. Ci trovate alla pagina Facebook Nessun Luogo Lontano - Radio 24 e ci trovate su Twitter, dove potete cinguettare su Nessun Luogo 24. E allora quest'oggi abbandoniamo per un attimo, per un giorno, la stretta attualità internazionale, gettiamo uno sguardo a sud, al di là del Mar Mediterraneo, sul continente nero, cerchiamo una nuova lente per osservare ciò che sta accadendo. E allora oggi andiamo in Africa, ultima frontiera. Il continente nero, storicamente sottoposto agli appetiti delle potenze occidentali, ai giochi di potere degli ex coloni, è strategicamente sempre più importante. Economie che crescono con tassi a due cifre, a dispetto della crisi del vecchio continente, illimitate o quasi risorse naturali, una naturale crescita dei mercati interni, la nascita di nuove industrie, la necessità costante e crescente di nuove infrastrutture, tutto ciò rende l'Africa un'occasione, ancora una volta formidabile, per chi vi si avventura. La Cina è oramai storicamente presente, Pechino ha consolidato la sua presenza da tempo. La corsa all'Africa è giocata sul piano dell'economia. Neocolonialismo, si dice da più parti, ma non solo. Le grosse potenze non vanno solo ad estrarre petrolio, a comprare cacao, e neppure solo a costruire strade. Il neocolonialismo, se lo vogliamo chiamare così, o più teneramente la penetrazione economica in Africa, si gioca anche con altre armi. Armi in senso letterale, ma lo vedremo nella seconda parte della trasmissione, e armi in senso metaforico, cultura, corsi di lingua, come formidabili grimaldelli per entrare e penetrare i mercati africani. E quindi la corsa all'Africa che si gioca su questi due differenti versanti. Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo Lontano e lo facciamo con Sissi Bellomo, giornalista del Sole 24 Ore, esperta di risorse e materie prime. Sissi, buongiorno. Buongiorno. E lo facciamo con Alessio Fabiano, che è docente di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto Alessio, parto con te perché dobbiamo un po' sfatare, dobbiamo diciamo dare le istruzioni per l'uso per questa puntata, perché parlare di Africa tout court è, come sappiamo, abbastanza insensato, quindi faremo una riduzione, dobbiamo essere consapevoli di questo. L'Africa è un continente con tante diversità, con tassi di crescita diversi, con tante realtà differenti, ma noi per comodità in questi tre quarti d'ora tratteremo l'Africa quasi come un tutt'uno. Stavo accennando a questo fatto, Alessio, che la corsa all'Africa si gioca sì sul piano economico, ma si gioca anche con armi più sofisticate, se vogliamo, no? Perché si accompagna alla penetrazione meramente economica una penetrazione culturale che è fondamentale. Perché? Perché parlare la stessa lingua, creare in qualche modo un universo di riferimento che è comune, ad esempio, a un'azienda cinese e a un mercato africano, ovviamente agevola. La prima domanda è neocolonialismo, lo possiamo definire così? Questo dibattito rischia di diventare un po' stucchevole, se vuoi, però ripartiamo da zero. Secondo te è neocolonialismo? Ci sono insomma diversi critici, diversi analisti che hanno parlato di neocolonialismo. Io questo termine tenderei a lasciarlo da parte, preferirei parlare, se focalizziamo l'attenzione sulla Cina, sul Beijing Consensus, vale a dire su una nuova piattaforma di relazione che la Cina ha creato in base a degli assi portanti che possono essere facilmente individuabili e che determinano poi la strategia cinese in Africa. Uno di questi assi è la non ingerenza negli affari internazionali dei paesi africani, quindi la Cina quando si interfaccia con i governi africani non chiede, come dire, dei benefit di tipo politici, ma soltanto delle relazioni di tipo economico, e quindi non vuole andare a vedere l'assetto democratico dello Stato con cui poi interagisce. Un altro degli assi portanti è rappresentato dalla cooperazione allo sviluppo non vincolata, tramite quindi la fornitura di tariffe preferenziali, per esempio alle infrastrutture civili, oppure di risorse tecniche o ancora di manodopera specializzata. Un altro asse portante è il sostegno ai paesi africani nelle istituzioni internazionali, soprattutto in quelle di tipo multilaterale come l'ONU, e tra questi assi poi è assunto un rilievo sempre più importante, quello del cosiddetto soft power cinese, vale a dire una rete sempre più ampia di relazioni di tipo culturali che permettono quindi alla Cina di creare, come dire, un avvicinamento ai paesi africani basato non soltanto sul core del business cinese, che è rappresentato dall'idrocarburi e dai minerali, ma anche su una penetrazione basata appunto sulla cultura, in modo tale che i paesi africani possano, come dire, avvicinarsi sempre più alle caratteristiche culturali della Cina. Ecco, hai citato gli idrocarburi, in qualche modo la corsa al carbone, al petrolio, al gas naturale è la missione di quelle grandi potenze, non solo Cina, che si avventurano nel continente nero. E allora ascoltiamo insieme chi sta andando in questa nuova frontiera e con quali numeri. La scheda. Dopo una lunga storia commerciale con Europa e Nord America, l'Africa subsahariana si sta progressivamente aprendo a nuovi mercati. Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, infatti, il 50% delle esportazioni e il 60% delle importazioni della regione avvengono con nuovi partner commerciali e principalmente con Brasile, India e Cina. Il ruolo dei cosiddetti BRICS è sostanzialmente omogeneo in tutti i paesi subsahariani e sembra destinato a incrementarsi nelle prossime decadi. Attualmente la Cina rappresenta il 17% del mercato import-export, seguita da India al 6% e Brasile al 3%. Il 70% delle esportazioni dall'Africa nera verso i BRICS è costituito da petrolio, una percentuale maggiore rispetto a quella dell'export petrolifero verso i partner commerciali storici. Per quanto riguarda le importazioni dai BRICS, l'Africa compra per lo più macchinari, prodotti chimici e prodotti manifatturieri. In particolare, la Cina sembra essere il fornitore d'elezione della maggior parte dei beni di consumo che circolano nel mercato africano. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, anche il ruolo di Indonesia, Malesia, Arabia Saudita, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti sta crescendo e nei prossimi anni questi 5 paesi potrebbero diventare i principali partner commerciali della regione. Un simile fenomeno sta avvenendo anche per quanto riguarda le fonti di capitale dell'Africa subsahariana. Guidati dalla Cina, i BRICS stanno incrementando enormemente gli investimenti diretti nella regione. Se nel 2003 la Cina rappresentava solo il 3% degli investimenti stranieri in Africa, ora si attesta al 16%. Gli investimenti cinesi sono maggiormente concentrati in Sudafrica, Nigeria, Zambia, Niger, Etiopia, Congo e riguardano principalmente il settore petrolifero e minerario, ma anche quello manifatturiero, edile, finanziario, agricolo e terziario. Gli investimenti indiani sono per lo più convogliati nelle isole Mauritius, mentre il Brasile investe maggiormente in Angola, Mozambico e Liberia. Sissi Bellomo, l'oro nero rimane in qualche modo la grande preda del continente nero, appunto, è quello che fa muovere, quello che scatena i più alti appetiti. L'oro nero, ma anche i minerali e i metalli. L'Africa è ricca anche di risorse di rame, per esempio, ma anche di metalli meno conosciuti, meno abbondanti, forse come il cobalto, come il tantalio. Sono molto interessanti anche le risorse africane di minerale di ferro, materia prima importantissima per l'industria dell'acciaio, per la siderurgia, che in Cina ormai ha assunto dimensioni enormi. La Cina produce metà dell'acciaio mondiale, ha una fame di minerale di ferro insaziabile. E poi i diamanti, l'oro, l'Africa è veramente un tesoro per i cinesi, che sono particolarmente forti utilizzatori di materie prime, ma anche per molti altri paesi, ed è una delle ragioni per cui fa gola a molti. Ecco, negli ultimi anni si sono anche combattute guerre diciamo, con strumenti finanziari, perché le grosse multinazionali del petrolio, insomma, si sono lanciate su quelli che sono ad esempio nuovi giacimenti in paesi come il Ghana, che ricordo ha tassi di crescita del PIL, se non erro, al 12% anno. Anche più del 14% ecco. L'anno scorso, credo che sia uno dei paesi in assoluto che ha avuto un tasso di crescita particolarmente elevato l'anno scorso. Sì, il Ghana è un caso già di successo, se vogliamo, è un paese che è recente come produttore petrolifero, anche se non come produttore di materie prime, perché da sempre è un grosso esportatore di cacao, per esempio, ma anche in parte di caffè. E il petrolio è una scoperta un po' più recente, ma comincia a essere un produttore interessante, un produttore che sta già estraendo petrolio al ritmo di 80.000 barili al giorno, che non è tantissimo, ma in prospettiva crescerà ulteriormente, ed è un paese che finora ha gestito abbastanza virtuosamente queste risorse che ha trovato nel sottosuolo. È un caso per adesso che fa scuola, ecco, un caso che comunque è ancora in bilico, che corre il rischio di subire come tanti altri paesi vicini. Pensiamo alla Nigeria, quella che si chiama la maledizione delle risorse, in cui la ricchezza non arriva poi alla popolazione, ma rimane concentrata nelle mani di poche elite, spesso corrotte, spesso prese da malaffari. Sì. Il Ghana per adesso è sulla soglia di una rivoluzione portata dal petrolio che non ha ancora portato gravi danni. Ecco, purtroppo è morto il presidente, potrebbe introdurre una fase di relativa instabilità nel paese, insomma un paese su cui ci si interroga molto se possa diventare un caso virtuoso oppure precipitare in situazioni critiche. Ecco, fra l'altro sulla morte del presidente di Mills poi girano speculazioni di varia natura, insomma si dice sia stato assassinato per non aver preparato il terreno a importanti investitori stranieri, e in qualche modo si palesa lo spettro. Tu facevi riferimento giustamente alla situazione nigeriana, dove, come in tanti altri paesi africani, il presidente Goodluck Jonathan è accusato di corruzione come parte del suo staff, un paese dove è il più grande esportatore di petrolio del continente nero e dove però la maggior parte della popolazione vive con pochi dollari al giorno, credo un dollaro e mezzo, due dollari al giorno. Volevo tornare con Alessio Fabiano su quello che è l'aspetto della corruzione e, come dire, di una certa fragilità dei governi africani, quindi a dispetto di, come dire, di altissime risorse, di grandissime potenziali ricchezze, quanto la fragilità strutturale dei governi è un grimaldello facile per potenze come la Cina, come il Brasile, come l'India, che si infilano e in qualche modo rubano il posto all'Europa, che invece storicamente occupava posizioni di dominanza. Ma tutto questo subito dopo la pausa. E dunque la corsa all'Africa, che si gioca con strumenti economici ma non solo. Stavo chiedendo ad Alessio Fabiano, docente di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica, se e quanto la fragilità dei governi africani, anche la, come dire, la facile corruttibilità in certi casi, facilita o no, cioè come va a incastrarsi con la corsa delle multinazionali e degli altri paesi sulle risorse africane. Non c'è dubbio che l'elemento della corruzione sia un elemento importante quando un'azienda, soprattutto dalle dimensioni grandi e importanti, con grandi risorse come quelle petrogasifere, vanno ad investire all'interno di un paese. Quanto più corruzione c'è, si può dire in generale, il trend è che aumenti la capacità di penetrazione di queste aziende nel relativo settore di espansione. In questo senso non si può negare che la fragilità dei paesi africani, sotto l'aspetto quindi della tenuta democratica delle istituzioni, rappresenti un etù per le grandi multinazionali. Dall'altro lato, purtroppo, questo rappresenta ovviamente un fattore negativo per quanto riguarda i processi di democratizzazione in Africa. Prima abbiamo accennato al Ghana, effettivamente si tratta di un paese virtuoso, però non dobbiamo dimenticare che dal punto di vista della tenuta istituzionale si tratta sempre comunque di un paese che appunto è in bilico, può rischiare da un momento all'altro, perché comunque il fattore di corruzione può essere un elemento che va ad incidere sulla democraticità di un paese. La Nigeria è il paese che viene preso per antonomasia per quanto riguarda questo aspetto. Ecco, e in Nigeria, e qua mi rivolgo a Sissi Bellomo, tra i vari competitor che entrano in questo delicato e ricchissimo mercato c'è l'ENI, nel senso che l'Italia comunque gioca un ruolo di prim'ordine. L'ENI è forse una delle più grosse realtà in Africa, vero Sissi? L'ENI vanta spesso di essere la compagnia petrolifera straniera, la major che ha una maggiore esposizione all'Africa, maggiori interessi in Africa, il che da una parte è senz'altro un vantaggio perché le nuove frontiere del petrolio sono in gran parte in Africa, parlavamo prima del Ghana, ma c'è anche sull'altra costa, sulla costa orientale, c'è una nuova importantissima area di esplorazione al largo del Mozambico, della Tanzania, dove ci sono giacimenti di gas veramente promettenti. L'ENI è storicamente da molto tempo in Africa e insieme a Shell è il maggiore partner della Nigeria. Ci sono stati sospetti, anche indagini giudiziarie su presunti casi di corruzione che l'abbiano coinvolta, come ci sono stati a carico anche di altre compagnie, Shell compresa. Sono sicuramente paesi difficili in cui operare, sono anche paesi in cui si è esposti a un rischio maggiore che altrove. Abbiamo visto, qui si parla di Nord Africa, però abbiamo visto che cosa significava per l'Italia avere la Libia come importante fornitore di idrocarburi. Nel momento in cui c'è stata una guerra civile si sono interrotte le forniture di gas e di petrolio che per noi erano importanti, rilevanti per soddisfare il nostro fabbisogno. Sicuramente il petrolio e soprattutto il petrolio ancora da scoprire, da sfruttare, ma così come il gas e anche minerali e metalli, e non si trovano sotto casa se non in minima parte, non si trovano in paesi civili dal punto di vista delle istituzioni, ovviamente non dal punto di vista delle persone, certo. Si trovano in paesi che hanno ancora grosse difficoltà di sviluppo, che magari sono indietro anche nello sviluppo democratico, che hanno un alto grado di corruzione, istituzioni instabili e spesso anche conflitti. L'Africa, ci sono paesi con risorse immense che non sono ancora state sfruttate appieno perché sono ancora coinvolti a pieno titolo in conflitti, come parliamo del Congo per esempio. La Repubblica Democratica del Congo è uno dei paesi più ricchi di risorse, sì, ed è uno dei paesi più poveri del mondo e più tormentati da guerre e da violenze. Per cui scommettere sull'Africa interessa a molti, non tutti si spingono fino ai livelli in cui si sono spinti i cinesi, che non hanno avuto paura ad andare in Congo, non hanno avuto paura ad andare in Sudan. Sì. Ai cinesi importa poco della democrazia, come diceva il professore prima, sì. non gli interessa mischiarsi in questioni politiche, questo viene anche apprezzato soprattutto da regimi poco democratici, che non gli si pongano ricatti sotto il profilo dei diritti umani o della democrazia, che gli si lasci in pace e in cambio li possono concedere le loro risorse con maggiore facilità. Certo, non è così che aiutiamo lo sviluppo dell'Africa, vorrei dire. Certo, tra l'altro in nome di una realpolitik così distaccata e così asettica, no? Che guarda soprattutto al fatturato, e i cinesi poi risultano essere capofila nei posti più, tu hai citato giustamente Congo e Sudan, che non sono esattamente i due paesi più tranquilli del continente nero. Pensiamo appunto alla recente ripresa del conflitto tra il confine del Sudan e del Sudan del Sud. Insomma, i cinesi in qualche modo riescono con tante armi e con tanto pelo sullo stomaco, se così possiamo dire, a infilarsi anche in quelle situazioni in cui magari come dire, altre multinazionali, altri paesi mollerebbero il colpo. Situazioni che gli si ritorcono contro in alcuni casi, perché hanno avuto anche grossi problemi in Zambia, dove sono stati accusati di violazione dei diritti umani, problemi in Sudan, dove i dissidi fra il Sud Sudan e il Sudan hanno causato una paralisi dell'industria petrolifera e dunque anche delle forniture verso la Cina. Insomma, problemi ne hanno avuti anche con questa, certo, disinvoltura. E questo vuol dire, ne sono assolutamente consapevoli, tant'è che negli ultimi mesi stanno attuando una nuova intelligentissima strategia, efficace quantomeno, che è quella di iniziare a muovere i media. E quindi la CCTV, la TV di Stato cinese, che apre 20 stazioni, 20 uffici di corrispondenza in Africa, trasmetterà in inglese, andrà a far concorrenza ai grossi network internazionali, o l'agenzia di stampa cinese, appunto, che inizia a mettere i suoi corrispondenti, i suoi reporter proprio nei paesi africani. Io ricordo lo scorso novembre seguivo le elezioni congolesi a Kinshasa e il reporter in prima linea che bruciava tutti i suoi tempi era appunto il reporter cinese, interessantissimo alle dichiarazioni del presidente Laurent Kabila, che ovviamente, come sappiamo, storicamente ha legato ha siglato accordi con Pechino assolutamente remunerativi. Quanto poliedricamente e astutamente si muova la Cina ce lo fa sentire questa ragazza nigeriana. Well, I'm studying Chinese language because it's very important in the world now, and I have passion for languages. I feel Chinese language is one of the languages I should learn. Also, I aspire to work in the United Nations, and Chinese language is one of the most recognized languages there. E così questa giovane studentessa di Abuja racconta la sua passione per la lingua cinese. Lo dicevamo all'inizio, è chiaro che una presenza massiccia, si parla di 1 milione di lavoratori cinesi in tutta l'Africa, è chiaro che ti costringe in qualche modo a cambiare i tuoi orizzonti. L'inglese è sì utile, ma forse il cinese lo è di più. Non solo media, non solo lingua, non solo cultura. Pechino da tempo dice: apriremo università sul territorio africano. Intanto a Khartoum ha aperto un centro culturale, questo per riavvicinare appunto le due popolazioni, perché come giustamente diceva Sissi Bellomo, ci sono stati casi anche violenti, insomma, di reazione rispetto a questa presenza. Alessio Fabiano, quanto la diversità culturale cinese e africana può portare a situazioni esplosive, e quanto la presenza cinese è così diversa da quella europea? Sì, come giustamente accennato la dottoressa Bellomo, in Africa sono sempre più numerosi i casi in cui si verificano degli scontri tra le comunità locali e i dirigenti di aziende minerarie o petrolifere o di altro tipo che vanno ad impiantarsi nei territori per fini estrattivi. C'è una, diciamo, questione innanzitutto tecnica di questo tipo di risvolti negativi della Cina in Africa, perché gli investimenti di questo tipo, cioè gli investimenti che riguardano l'industria estrattiva, sono investimenti capital intensive, cioè hanno un'alta intensità di capitale e perciò possiedono una bassa capacità di generare lavoro. Ci sappiamo che in Africa il lavoro è qualcosa che manca, insomma, se sì. Si vanno ad impiantare i cinesi in un territorio promettendo magari di generare nuovo lavoro, ma questo non arriva, per questa questione tecnica, certo, si creano appunto delle situazioni di tensione. Certo, cosa che in realtà magari non accade, ti interrompo, quando si costruiscono le strade o si costruisce uno stadio, per cui vedi il capo ingegnere che è cinese e la manodopera, invece parte della manodopera, molto ragionevolmente quella meno qualificata, è locale. Sì, esatto, appunto soltanto parzialmente, perché anche in quel settore, nel settore cioè dell'ingegneria civile, quindi della costruzione di infrastrutture di cui molte parti del continente hanno strategicamente bisogno, effettivamente la Cina tende ad esportare anche manodopera verso l'Africa. Questo fa parte di una strategia generale della Cina, che è quella di dare sfogo, diciamo così, allo sviluppo africano, portando all'estero la propria manodopera che non è capace di utilizzare all'interno. Questo però appunto in Africa va in situazioni fragili dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista sociale, va a creare delle tensioni che poi si ripercuotono nei rapporti tra Africa e Cina a livello generale, da cui appunto il tentativo della Cina più recente di cercare di costruire un rapporto di tipo culturale e quindi arrivare ad una intensificazione di queste tensioni. Sì, e anche a smussare appunto questa ruvidezza, se vogliamo. Un'ultima domanda per Sissi Bellomo, prima di lasciare entrambi i miei ospiti. In ultima istanza, l'Eldorado africano, quale paese potremmo battezzare come, no? L'ultima grande frontiera, il vero paese ricco su cui tutti andranno più o meno a investire nei prossimi anni. Ma in questo momento c'è grandissima attenzione su Mozambico, Tanzania. Questo non esclude altre frontiere. Mozambico e Tanzania ha dato grandi soddisfazioni nell'esplorazione di idrocarburi offshore, quindi a largo in mare ci sono giacimenti veramente interessanti di gas, e su cui hanno puntato l'attenzione anche le major. Eni è già presente, Shell sta impazzendo per entrarci, è stata fregata dai thailandesi, che questo anche ce la dice lunga sui nuovi equilibri mondiali. Sì. Stava cercando di acquisire una società che ha degli asset in Mozambico e a furia di rilanci i thailandesi l'hanno conquistata al loro posto. Altre frontiere interessanti, però ci vorrebbe la pacificazione, sono all'interno dell'Africa, il Congo di cui si diceva, ma probabilmente prematuro. Grazie allora a Sisi Bellomo, giornalista del Sole 24 Ore, buona giornata e buon lavoro. Grazie. E grazie anche a Alessio Fabiano, docente di storia dell'Africa contemporanea, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi proseguiamo in questa analisi, in questa corsa verso l'Eldorado Africa, una corsa che si combatte con le armi dell'economia e della cultura da un lato, Cina, India e Brasile, e dall'altra parte c'è una presenza più nascosta, più strisciante, che è quella americana, e che è fatta di alta tecnologia, è fatta di Marines, è fatta di corpi speciali. The absolute imperative. L'imperativo assoluto dell'esercito degli Stati Uniti è quello di proteggere l'America, gli americani e gli interessi americani. Nel nostro caso, nel mio caso, è proteggerci dalle minacce che possono emergere dal continente africano. Questa è la dichiarazione di Carter Ham, del generale americano, che in qualche modo mette i puntini sulle i e fa capire quanto il continente nero sia strategico e importante per Washington. Oggi a Nessun Luogo Lontano stiamo ragionando di questa strana e antitetica corsa all'Africa, da un lato le grandi potenze, le multinazionali che si muovono sul piano economico, quasi solo strettamente economico, dall'altro una presenza, dicevo, un po' più oscura, un po' più strisciante, quantomeno per adesso più o meno in punta di piedi, che è quella statunitense. Ne parliamo con Gianandrea Gaiani, esperto di strategie militari e direttore della rivista Analisi Difesa. Buongiorno Gianandrea. Buongiorno a voi. Allora Gianandrea, in realtà la presenza statunitense non è esattamente una novità, così come non è una novità l'impegno a stelle e strisce, l'impegno militare e anche economico, l'impegno a stelle e strisce nel continente nero. È fra l'altro abbastanza fresca la notizia del taglio di $2,000 di $200,000 al Ruanda, dopo che un po' tutta la comunità internazionale sta puntando il dito verso l'ennesima ribellione capeggiata dal generale Bosco Katanga, stavo dicendo Laurent Nkunda, che era quello prima, il suo maestro. E, insomma, il Ruanda, spesso accusato di spalleggiare le rivolte nell'est del Kivu per ragioni strategico-minerarie, guarda un po', e insomma gli Stati Uniti hanno detto basta, noi ti togliamo questi $200,000 l'anno, che non è tantissimo, per carità, però è un segnale in qualche modo dell'attenzione politico-strategica che gli Stati Uniti rivolgono in Africa. Come possiamo riassumerla? Come possiamo fotografare questa presenza statunitense? Fammi fare un preambolo proprio sulla questione che tu hai sollevato del Ruanda e proprio i condizionamenti posti in generale dall'Occidente ai paesi africani su come venivano spesi i soldi che l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Europa fornivano, ma anche i condizionamenti sugli aiuti economici posti dall'Occidente sono stati uno dei fattori che hanno convinto negli anni scorsi molti paesi africani a rivolgersi non più all'Occidente ma alla Cina per il supporto militare e anche poi economico, che non poneva grosse condizioni, ma semplicemente si limitava a chiedere concessioni per lo sfruttamento delle risorse del paese. E detto questo, è chiaro che gli americani hanno una presenza in Africa che è dettata da diverse ragioni. E se noi guardiamo al passato, i grandi interventi militari americani negli anni 90, prima in Somalia, insieme alle forze dell'ONU, tutti ricordiamo come finì, con un fallimento, e poi in Ruanda durante la Grande Guerra Civile, e un intervento militare umanitario che comunque non influì più di tanto sull'andamento, su quel massacro che si verificò sì. Nel 94. Gli americani tornano in forze, anche se con truppe limitate, in Africa dopo l'11 settembre, perché la strategia globale di Enduring Freedom riconosce che l'Africa è alcune aree dell'Africa, in particolare il Sahel e l'Africa orientale, sono aree interessate dalla presenza di movimenti estremisti islamisti, in alcuni casi legati anche direttamente ad Al-Qaeda. Da qui la costituzione di diverse piccole basi nel Sahel, la nascita della Trans-Sahara Counter Terrorism Initiative, che è un'iniziativa sostenuta con $500,000 all'anno inizialmente, poi con cifre crescenti fino a $500 milioni all'anno, per fornire aiuti a questi paesi in campo, in termini militari, di sicurezza, e aiutarli a contrastare il fenomeno insurrezionale islamista. La più grande base americana in Africa dal 2002 a oggi, infatti esiste da ormai da 10 anni, è quella di Djibouti, di Kempe, sì. Dove una task force di oltre 2200 marine per lo più, ma ci sono forze speciali, ci sono i famosi droni, i velivoli teleguidati Predator, e ci sono contractors che operano clandestinamente in Somalia, ci sono agenti della CIA, uomini di varia estrazione che da questa zona strategica vicino al Mar Rosso operano sia in Africa orientale, che Etiopia, Somalia, ma anche nel vicinissimo Yemen. Quindi l'interesse americano nasce da un'emergenza che è quella nazionale, 11 settembre, l'esempio di rispondere a una minaccia terroristica. E poi si consolida e oggi si è ramificata anche per altre ragioni, che non esclusa quella di contrastare la crescente penetrazione cinese. E di quanto gli occhi statunitensi si siano posati sempre con più attenzione sul continente africano, c'è un caso che ha fatto scuola e ha fatto discutere parecchio. We are living in a new world, Facebook world, in which 750 million people share ideas, not thinking in borders. It's a global community bigger than US. Joseph Kony was committing crimes for 20 years and no one cared. We care. E questo era un estratto di questo video realizzato da Jason Russell per Invisible Children, che in qualche modo voleva scoperchiare, no, questa eterna annosa questione. Joseph Kony, tristemente noto per il suo reclutamento di bambini soldato, questo video poi è diventato un vero e proprio fenomeno virale. In realtà il video è stato poi anche condannato duramente dagli stessi ugandesi perché semplifica eccessivamente la realtà, c'è chi ha detto la lobby statunitense delle armi ci sta dietro. Ma insomma, il risultato qual è stato? Che addirittura il presidente Obama ha detto noi prenderemo Kony e ha messo la quinta. E cosa ha fatto? Ha spedito un manipolo di Marines, se non erro, correggimi Gianandrea, dove nel cuore di questa guerra che si sta combattendo ormai da 25 anni a caccia di Joseph Kony, leader del Lord Resistance Army, gruppo ribelle ugandese che squassò Kampala, adesso scorrazza, ormai sono circa 300 si dice i membri rimasti, ma tra cui Kony, che è anche ricercato dalla Corte Penale Internazionale, che scorrazzano tra le foreste e i territori sperduti del Sud Sudan, Repubblica Centrafricana e Congo. Ma questo manipolo di Marines mandati a Obo, in questo villaggio sperduto, cosa fanno? Solo addestrano gli ugandesi, come ufficialmente dicono gli americani, o questi zitti zitti in braccio nel fucile? Beh, gli americani hanno sempre avuto nella loro tradizione l'esigenza anche mediatica di trovare il mostro da sbattere in prima pagina, anche per giustificare, no, gli interventi militari in passato anche di più ampia portata, ad esempio contro Saddam Hussein in Iraq, ma anche in Somalia nel 92, alla fine del 92, lo sbarco, poi la caccia a Mohammed Aidid, il signore della guerra, dipinto come il peggior criminale della Somalia. Certo era un criminale, ma certamente era in buona compagnia. Oggi tocca a Kony, ma in realtà dietro a questo intervento di un centinaio di forze speciali americane in Uganda, che hanno capacità sia come consiglieri militari per addestrare le forze locali, sia capacità come forze speciali loro, quindi capacità di compiere attacchi e azioni dirette, questo dimostra che gli Stati Uniti hanno un grande interesse verso la regione dei Grandi Laghi. Tu stesso l'hai detto, l'Uganda è a due passi dal Sud Sudan, paese che è in guerra contro il regime di Khartoum, contro il Sudan, appoggiato dall'Iran e dalla Cina, competitor se non nemici nel caso dell'Iran degli Stati Uniti. Sì. E poi l'Uganda è un paese importante militarmente, ha capacità molto buone che sono state costituite anche con, grazie alle armi e agli istruttori americani. L'Uganda e altri paesi inviano truppe in Somalia a combattere gli Shabab, sì. E in Uganda viene addestrato quello che dovrebbe essere il futuro esercito somalo. Ci sono istruttori anche, c'è una missione europea con anche i consiglieri militari, istruttori italiani che addestrano le future forze somale sperando di dargli una capacità operativa reale. Quindi anche la regione dei Grandi Laghi è importante per gli americani, ma quello che noi, quello che si evidenzia oggi con l'amministrazione Obama è una serie di interventi in Africa anche, ma non solo in Africa, di bassa intensità, nel senso che vengono effettuati con pochi uomini, reparti d'élite, una commistione fra l'intelligence, la CIA, le forze speciali con altissima tecnologia, satelliti, velivoli teleguidati, capacità di azione rapida e soprattutto poco visibile, sì. Incursioni dal mare fatte con i marines da navi di cui nessuno spesso sa nulla e che quindi hanno un impatto politico mediatico molto limitato, ma nell'ottica della strategia statunitense potrebbero consentire di conseguire risultati di valore strategico. E allora ti chiedo, Gianandrea, perché siamo in chiusura, estremamente telegrafico, se e quanto questa strategia del chirurgica, no, in qualche modo, sarà efficace contro il grande nemico che è questa coalizione che si sta prospettando all'orizzonte sempre più concreta, Al-Qaeda nel Maghreb, Boko Haram e Al-Shabaab, che insomma è una minaccia sempre più seria. Andranno avanti sempre di bisturi oppure ci vorrà insomma un impegno più massiccio? Io credo che la differenza la farà la tenuta dei singoli paesi africani, cioè se alcuni paesi del Sahel dovessero cadere nelle mani, diventare stati canaglia, quindi non più paesi che combattono un'insurrezione islamista, ma venire rovesciati guidati quindi da regimi islamisti, beh allora forse le azioni chirurgiche non saranno più sufficienti e si dovrà procedere ad operazioni militari a più ampio respiro. L'obiettivo di questa iniziativa americana in Africa è anche quello attualmente, addestrare le forze locali per evitare un'escalation delle capacità anche offensive degli islamisti. Ecco, fra l'altro dicevi, stati che ormai vengono dominati dalle componenti islamiste estreme, beh, come è il caso ai noi del nord del Mali, che è quasi completamente nelle mani appunto di quella insurrezione, una volta Tuareg, adesso invece più sempre più marcatamente Al-Qaeda. Grazie a Gianandrea Gariani per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. A voi, arrivederci. E un grazie anche a voi, gentili ascoltatori, per essere stati con noi anche quest'oggi. Grazie anche a Miriam Lucchetti e Massimo Brugnone, sono stati in redazione a confezionare con me questa puntata, a Roberto Scaltriti che gli ha dato la musica e il ritmo giusto. Nessun luogo lontano torna domani 13:15 su Radio 24.